Le guance bruciano come ferite coperte. Coccio spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Mia Daschio su Piei e Stefano W. Pasquini. You in my life, just give me back mine. I think it's about time you. There is a room in your life for more pairs of shoes. It's all about you, so you're only in love with yourself, obsessed with how well you're coming across. Get lost. Now I can see I was just starting to match with the purse. I'm not your poodle. No, please. Why are you acting so cocky? You can meet like your chicks bounce like volley. Cause I know from our night at pillow talk time, you call my phone popping and sounding all sorry. You were so silly acting all gobby. Cause I just ain't another girl like E. Cause you ain't worth another girl like me. I can do way better than you, Resort Glory. Now I'm pulling the chains, always flush out my veins, out the drain. Flush, you're like a no more sink. Your lips skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that, all I heard was nah, yeah. I being too nice, too nice, too nice. You can't afford to be sore. I think you've been smoking way too much more. Cause I being too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. Before you get hit with that, suggest you just flush. Prova, prova il microfono. Mi stava già partendo una bestemmia, non so perché. You don't even know how to provide for your shit. Broke ass guys, I spent five on a dick. All my mates said that I had you with. Do I intimidate you? Cause I am the shit. Yeah, I am the lit. Can you shut pipe down? Go make that real young and leave right now. Cause I could turn this argument right round. So baby, stick your tongue out and bite down. You wear the ups and downs, ins and outs of your hair. I don't really care with the girl who works there. No what boots reduce the size of your derriere. I don't care how you think I should behave. I can't believe that I changed. You had me whipped and chained, but no more. Shut up and listen, I'm gonna flush you out my system. Flush, now I'm pulling the chains. So it's flush, out my veins, out the drain. Flush, you're like a no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each my boot, meet my friends. Flush, sorry love, what was that, all I heard was I being too nice, too nice, too nice. You can't afford to be still. I think the biz working way too much bonkers. I being too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. So before you get hit with, I suggest you flush. Noi come siamo? Alti? Alti? Siamo belli? Che dici? Caldi? Caldi? Sì, ci sta, ci sta. Sì. When we went Paris, remember that time? Yeah. I tried to do something nice, you just whine. I bought you champagne, but now you want wine. It's a real pain, just make up your mind. I made up my mind, you're wasting my time. You ain't got no right, you wait all the pies. Cause I know five guys who's waiting in line. So best shut up, slide and say your bye-bye. Quindi dicevi che Giulio non si presenta e io parto presentando Giulio. Presentando Giulio Lolli. abbiamo una puntata tutta per lui. Esattamente. Benvenuti a Coccio Spaziale. Io sono Mia Daschio su Piei. E io sono Stefano W. Pasquini. E stasera abbiamo... clicca così. Senti un po'. Sì, ci sta, ci sta. Avevo fatto questo background di Lucio Dalla per una puntata in cui era venuto il cugino di Lucio Dalla e siccome oggi è il 4 marzo ho detto aspetta che la riciclo, perché in realtà ho anche un background dei Central Units, però è spento il microfono. Prova è meglio, sì. È meglio Lucio Dalla questa sera è meglio Lucio Dalla. Allora, abbiamo qua un po' di ospiti. Allora, diamo il benvenuto, il ribenvenuto a Riccardo Lolli, che abbiamo visto lunedì scorso, ma che non abbiamo sentito abbastanza lunedì scorso. L'abbiamo solo visto, e dunque... Sì, eravamo in 12 e mi sono limitato a disturbare con dei sonagli, con delle cavigliere. No, ma si sentiva la tua presenza, e stasera nella compagnia di Ilaria Tontardini, dell'associazione Amelin, e non solo, perché poi... ti racconteremo anche in altre vesti. Benvenuta Ilaria, invece la tua prima volta a Cocco Spaziale, questa è la puntata 481, mi sembra. 481, sì, confermo. Se volete scrivere, ti sto spistolando. Sì, infatti fai da Dio. Il mixer, così. Se volete scriverci un messaggino al 333-180-9494 e mandare dei vocali a salutare i nostri ospiti di stasera, siamo tutti qua sintonizzati su Radio Città Fugico. Come partiamo? Partiamo così. Come partiamo? Non lo so. Partiamo con Lucio? No, non lo so. Come partiamo? Partiamo con Lolly che ci devi raccontare oggi? Allora, io vi racconto una cosa che è capitata a settembre, però perdura nel tempo, fortunatamente. È uscito un album, sì, prodotto dal MEI, dal Meeting delle Etichette Indipendenti, insieme, certo, alla casa discografica Snowdonia, ed è un tributo a Rodolfo Sant'Andrea, che voi forse non ricordate. Non ricordiamo. Ma andò a Sanremo, si presentò a Sanremo nell'84 tutto nudo, in smoking, cantando una canzone scritta insieme a Riccardo Cocciante che si chiamava La Fenice, si chiama La Fenice, e vinse il premio della critica. Dopodiché fece 4 album molto belli, passati però inosservati, e poi ha aperto una scuola di musica, ha fatto tante altre cose. È venuta l'idea di omaggiarlo con un tributo, un album, un CD tributo a... Perché non c'è più, immagino. No, c'è. Ah, c'è ancora. Viene omaggiato da vivo, bello. Infatti sarà contento. È rimasto abbastanza basito. Si sarà toccato un attimo. E poi è venuto, abbiamo presentato il disco a Faenza in occasione del MEI, poi a Lonate Ceppino, che è un nome particolare, però è vicino dalle parti di Bergamo, di Milano. Ok. A proposito di Bergamo, apro e chiudo una parentesi sul Bologna-Atalanta di ieri sera. Sì, che l'ho visto anch'io. Sono super preparata, super tifosa. Quello che non sapete è che è proibito parlare di calcio a Coxo Spaziale, okay, per cui smettetela immediatamente. Infatti io apro e chiudo. Ok, perfetto. Chiusa la parentesi per i prossimi 4 anni, non voglio sentire una parola. Ma perché io ho visto mezza partita, eccezionale, è la prima volta che guardo. Ah, ecco. No, io invece sono entrato dentro a un pub che trasmetteva il Bologna, e dunque non c'era posto per sedersi, per cui ci sei rimasto male. Esatto. Ci sei rimasto male. No, sono andato in un altro posto. E quindi hai detto a tutti: voi non sarete mai invitati a Coxo Spaziale. Sì, esatto. Grande. Così, no, il calcio no, anche se, perché se ne parla fin troppo in questa radio, non che abbia nulla da ridire sulla programmazione di Radio Città Fugico, però comunque assolutamente, però, per quel che mi riguarda. Però prima dicevi tutti nudi per un motivo. Ah, io dicevo tutti nudi. Hai detto tutto nudo. Hai detto tutto nudo, ho ricevuto il premio tutto nudo. Tu hai detto no, assolutamente, però tutto nudo veniva fuori da insomma, un tutti nudi. Lo vuoi far cantare subito? Io voglio sapere tutti nudi, voglio sapere qualcosa prima su tutti dobbiamo nudi. Introdurre anche la nostra altra ospite. Sì, certo. Sì. Chi è? Perché è qua? Chi sono? Ah no, allora Ilaria Tontardini è venuta qua a parlarci in generale, spero, dell'associazione Amelin e delle fantastiche programmazioni che fate ormai da anni nel territorio di Bologna. Io vi ho conosciuti con Bussola d'Oro nel 2017 e poi vi ho seguiti come fruitrice nelle altre vostre iniziative. Finalmente ho avuto l'occasione di invitarvi qua in radio per parlare di quello che sta per succedere. Sto parlando di Boom, Crescere nei libri è promosso dal Comune di Bologna e Bologna Fiera, curato dal settore biblioteche e welfare culturale del Comune di Bologna e Amelin, nell'ambito del Patto per la Lettura di Bologna in occasione di Bologna Children's Book Fair. Quindi questo progetto di cui siete co-curatori insieme al settore biblioteche e welfare culturale del Comune di Bologna è quasi in pronta uscita, no? È uscito ieri la prima parte del programma nel sito, e quindi ricordiamo a tutti gli ascoltatori che se vogliono andare a vedere Boom, crescere nei libri.it possono informarsi di più, ma qui Ilaria ci è venuta a raccontare qualcosa un comunicato stampa di 8 pagine, tutto. Ci voleva un'intera trasmissione per lei, che in realtà avevi fino a che no, io non ho pensato bene di richiamare Riccardo Lolly qui con noi. Niente, Riccardo, che però sarò la tua nemesi. Ci delizierà altrettanto. Con tutti i nudi che abbiamo scoperto durare 8 minuti. 8 minuti. Ok, bisogna decidere quando partiranno questi 8 minuti. Direi tra 8 minuti. Di tutti. Potremmo fare tra 8 minuti. Mi sembra un'ottima idea. Cosa ci dici intanto? In questi 8 minuti c'è un botto di roba da dire. Quindi, infatti. Preferivo quando partiva lui, ma parto io lo stesso. No, allora, Boom Crescere nei Libri è una enorme rassegna che ormai da 6 anni si svolge a Bologna, in concomitanza con una rassegna che invece è molto più antica, è molto più, diciamo, storicizzata, che è la Fiera del Libro di Bologna. E la Fiera del Libro di Bologna non fa mai male. Del libro per ragazzi. Adesso ci arriviamo. Sì, no, in effetti, no, perché la Fiera del Libro storicamente era quella sotto il Paviglione, che adesso mi sa che non esiste neanche più. Era bella. Stiamo parlando quando tu eri una bambina, naturalmente. Grazie, molto. Però adesso è inglesizzata, children, non si dice più Fiera del Libro per ragazze. È vero, adesso si chiama Children's Book Fair. Ma c'è un motivo, perché è il maschile e femminile. Perché non vogliono gli italiani. No, scherzo. Cattivo. È semplicemente che in realtà è piccoli, ma è la più importante fiera mondiale dedicata al libro per ragazze. Quindi, il fatto che si chiami Bologna Children's Book Fair è proprio perché è l'evento proprio e poi in effetti corrispettivo di Francoforte per la letteratura dell'infanzia, quindi è una cosa notevole. Sì, no, e poi fra l'altro in effetti mettendola in inglese non hai più il maschilismo di dire ragazzi o l'asterisco di così. Non credo che Bologna Fiere metterebbe l'asterisco. Sì, detto tra noi. Mi astengo. Resta di fatto che siccome da tantissimi anni c'è questa grandissima fiera, accade che ogni anno a Bologna arriva il meglio del meglio dell'editoria mondiale per l'infanzia. Per cui ed è un momento molto allegro in generale, è l'inizio della primavera tendenzialmente, e la città proprio si popola di autori, di autrici, di editori, di illustratori, illustratrici, fumettisti, per cui un po' spontaneamente, un po' perché Bologna è sempre stata da questo punto di vista una città super ricettiva, pensiamo ai taglieri. Scherzo. No, diciamo che lo era indipendentemente dai taglieri, pensiamo a Faeti, alla cattedra, la prima cattedra di storia e letteratura per l'infanzia, alle biblioteche che ci sono in questa città, alla biblioteca Sala Borsa, insomma un territorio che veramente al primo corso di illustrazione e fumetto dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, che è stato il primo nazionale, che quest'anno fra l'altro festeggia, così torniamo dentro Boom, 20 anni. Quindi insomma ce n'è di materiale, lascia perdere, ce n'è tanto di materiale, e da ormai 6 anni tutto questo materiale viene messo insieme in un enorme calendario di eventi e di attività che si svolge in città. Si svolge in città, in realtà parte prima della fiera e finisce molto dopo della fiera, nel senso che poi c'è tutto un territorio che risponde, per cui Boom comincia il 4 di aprile ma finisce il 9 giugno con le scuole. E per cui in questo periodo ci saranno mostre, incontri, autori nelle scuole, c'è un programma che si chiama Boom a Scuola che porta proprio il meglio degli autori e delle autrici dentro le scuole a incontrare le classi una ad una, ci sono proiezioni, spettacoli, insomma è veramente tutto diffuso. È molto diffuso, e tutto quello che accade attorno alla letteratura di qualità per l'infanzia e attorno ai progetti sull'infanzia si addensano in questo momento, ed è insomma una bella maratona, ecco, per chi vorrà seguirla e anche per chi la organizza. Anche per chi lo organizza, sì, diciamo di sì, però speriamo di uscirne vivi come tutti gli anni. Come vi è venuto in mente di costruire tutta questa cosa attorno alla Children's Book Art Fair? Perché beh, in realtà è un'idea, cioè c'è sempre stato, cioè voi avete una storia lunga, noi abbiamo come una Amelin. Lunga storia come Amelin, abbiamo sempre organizzato in collaborazione con la fiera o in collaborazione col comune o con varie, diciamo, istituzioni delle mostre, perché noi ci occupiamo poi di studiarla la letteratura per l'infanzia, primariamente di studiare la letteratura e di studiare le immagini che con lei vanno. E allora da questo lavoro di studio e di ricerca lentamente è nata l'idea di costruire poi un qualcosa che tenesse insieme già tante cose che accadevano in città, perché c'erano già le mostre, c'erano già gli incontri, serviva poi un luogo dove raccoglierli. E poi l'idea che è nata boom ha fatto poi nascere conseguentemente altre idee per esplorare che cosa si può fare. Che anno di nascita possiamo dare a boom? Allora, sono 6 anni, fate voi il conto perché mi perdo sempre. No, 2018. Sì. Abbiamo fatto anche un'edizione in una bizzarra edizione in pandemia, è certo. E era stato molto, molto bello perché poi era la prima volta in cui ci si rivedeva e quindi era bello e molto strano. E siamo molto contenti di averle fatte poi di nuovo dal vivo. Normali. Se uno dice Bilbo il Bull. Se uno dice Bilbo il Bull, dice un altro pezzetto invece della storia e del lavoro dell'associazione, che è tutta la parte, diciamo, la dimensione di ricerca, sempre sul visivo, ma invece che all'illustrazione legata al fumetto. E Bilbo il Bull è stato un festival che ha avuto tantissime edizioni sulla città, che poi a un certo punto, proprio per voglia di cambiare la manifestazione che avevamo costruito, perché ci sembrava avere un po' compiuto la sua storia, era nata in un momento in cui non c'erano delle attività sul fumetto sul territorio nazionale come ci sono adesso, si è trasformato molto il mondo del fumetto in 20 anni di storia di Bilbo il Bull, è nato alle origini sempre per dei discorsi che si facevano arrivando qua come un micro ciclo di rassegne sul fumetto, di incontri pomeridiani, è diventato un enorme festival e adesso ci siamo inventati un nuovo progetto che si chiama Ad Occhi Aperti, che rispetto a Bilbo il Bull, che aveva una vocazione molto diffusiva sulla città e anche molto, diciamo, differenziata rispetto a come parlare di fumetto, abbiamo deciso di provare a fare una cosa diversa che si concentra su come il fumetto può veramente raccontare il contemporaneo. Per cui Ad Occhi Aperti, che ha avuto la sua, diciamo, seconda edizione, perché la prima è stata una specie di anno zero nel mese di novembre del 23, ha ragionato sull'idea di abitare e ha ragionato proprio su questo concetto, trovando autori e autrici che dell'abitare oggi come tema ne avevano fatto un po' una ricerca grafica, chiaramente. E attorno a loro ha messo tanti punti di vista che non erano per forza legati al fumetto, ma del mondo culturale e artistico in generale, che ci hanno aiutato a raccontare questo tema. E direi che con questo possiamo dare il via e direttamente la suono Tutti Nudi. Sì, o vuoi dire qualcosa? Non ti spogliare, però. piano ve lo racconterò. Il maglione me lo sono già tolto. No, allora il CD che ho fatto nel 2014, che tu conosci bene, mi sembra sono già passati 10 anni. Cavoli, in effetti non ho parole. Sono passati 10 anni. In questi 10 anni ho scritto degli altri pezzi. Questo è uno di quelli che ancora deve trovare una collocazione. Però mi sto bruciando. Vi avviso che mi sto bruciando per voi l'apparizione a Sanremo. Sapete che a Sanremo i pezzi devono essere inediti. Ecco, quindi questo pezzo da 8 minuti, che lo vedevo proprio perfetto per Sanremo, esatto. Tra Amadeus e Morandi, tutti nudi naturalmente, e contiene un campionamento che mi hai passato tu. C'era quell'app una volta che ti vedevi le dirette della gente, non mi ricordo come si chiamava. Certo, me lo ricordo, ricordo che chiedevo conoscete Riccardo Lolli, esatto, l'ho utilizzata in questo brano. Riccardo, io no, Riccardo, me lo ricordo, non mi ricordo, ma era praticamente un TikTok prima di TikTok. Sì, era solo in diretta, mi ricordo. Era solo in diretta, in effetti. Era quello che era in giro per il mondo. Cioè, tu potevi scegliere un pallino in giro per il mondo Periscope, e vedevi. Periscope. Bravissimo, grande Periscope. Cavoli, è scomparso completamente. Era fantastico, in effetti, perché io andavo a vedere tipo a sud del Giappone cosa succedeva e c'era. E cercavi Riccardo Lolli. Sì, ho trovato Riccardo Lolli tutto nudo. E allora io ti introduco, cioè sì, vado. No, però siccome io la voglio registrare, abbassa prima Lucio Dalla prima di far partire tutti i nudi. È un po' lungo, è come un cortometraggio lungo. No, anche perché oppure questa versione è una versione inedita. È un brano inedito. Cioè, non solo, cui tu stai cantando in diretta. Io canto dal vivo sulla base. Sulla base, cioè non sei in playback qui in radio. No, ok. Dal vivo. Vai. Che ore sono? No, sono nudo. Ah sì, buongiorno, come va? Ho delle pendenze, ci si penserà. Entro dicembre, entro settimana, non entro, lascio passare la Befana, poi dopo entro nel mito. Ma quello là è vestito, ha un tessuto ignifugo che gli brucia in testa. Ma sì, è una nuova moda hip, ha un gettone della SIP. No, sono nudo, l'igiene è ben curata, l'immagine è curata. Mi scusi il disordine mentale, l'avessi saputo avrei pulito. Ma quello là è vestito, si porta da solo al guinzaglio. Ma sì, se non mi sbaglio, è suo questo bagaglio. No, sono nudo, si vede quasi subito se sudo. Per questo mi ricopro con il talco e provoco conati ai meno fortunati che devono cantare sopra un palco. L'indico col dito finché non han finito. Ma quello là è vestito, ricoperto da foto di se stesso nudo, stampate su carta riciclata. Una risma di pensieri si affolla nella mente. Scusi, sa che ore sono? Scusa, sa che ore sono? Conoscete un cantante che si chiama Riccardo Lolli? Riccardo? I know a Riccardo. Yeah. Ew, gross! Go away! Go away! Go away! Go away! Go away! Go away! Stop it! Go away! Lo siento, español es lindo. Gracias. O sea, es bastante normal. Scusi. Riccardo? Who are you? Literally go away. You should see a doctor. Go away! No, alright. This was fun and all. It was so bad. Peace out, guys. Be good, man. Stay cool. Say something in Italian. Fanculo. Fanculo. Fammi vedere cosa c'è sotto il vestito. Sotto il vestito niente del niente è sparito. C'era un disegno, c'era un ritratto, un vetro rotto, un vetro intatto. Parole d'un fatto. 6 + 6 + 18. Fammi vedere cosa c'è dentro la mente. Dentro la mente niente del tutto più assente. Un quadro sbagliato, un quadro esatto, un filo di rame che non fa contatto, un filo di voce, un pelo di gatto. Fammi vedere cosa c'è sotto. Buongiorno. Qualcuno prima d'ora le ha mai posato sul palmo della mano questo smartphone. Buongiorno, potrebbe essere suo. Se lei collabora, se lei collabora, faccia una bella firma, poi faccia una bella faccia. Anzi, lei faccia la faccia, che la firma la faccio io. E si ricordi di non recedere prima di un anno. Se vuole rivedere suo nonno. Buongiorno, ed ora mi accanisco. Le faccio vedere le slides, le faccio vedere le slides. Buongiorno, ed ora mi accanisco. Le faccio vedere le slides e non mi perdonerà mai. Le faccio vedere le slides come in Arancia Meccanica, come una setta satanica. Lei pianga calde lacrime, le conserverò in una tanica. Non si asciughi con la manica. Buongiorno, le faccio vedere cosa c'è sotto. Un uomo donnato, un vitello pollato. Buongiorno, un gatto accanito, un gatto caldo, un cane bagnato. Se corro più forte del cane, infrangerò il muro del cane. Io corro più forte se piove. Terrò le mani in tasca sul bordo della vasca. La capra casca, la capra casca. Buongiorno, dovrà temere i giovani, anche se portano doni, se portano smartphone. Buongiorno, dovrà farmi vedere i contatori, i suoi tesori. Le donerò un divano, lo so che è tutto vano, ma butta via un divano. Se preferisce un secchio, ma è un modello già vecchio. Non mi rifletto nello specchio. Roberta Giallo e questo è Coxo Spaziale. Ciao, sono Emily e questo è Coxo Spaziale. E io cominciamo con l'applauso. Siccome sei stato segato da Roberta Giallo, ti facciamo l'applauso dopo la pubblicità. Abbiamo appena infatti ascoltato Tutti Nudi di Riccardo Lolli, che ha fatto 8 minuti, ma posso dire che quando ho visto 8 minuti un po' ho detto chi lo sa se che cosa succederà in questi 8 minuti. Mi aspettavo anche dei momenti di silenzio, di narrazione, di così, di parola. Invece hai cantato 8 minuti, 8 minuti tutti. L'inizio, neanche fosse Bruce Springsteen, capito? Sì. L'inizio è rappato, diciamo, però è parlato, insomma, senza far trasudare parte. Stanchezza non si è vista nei tuoi occhi, né nella voce. Hai ricevuto i complimenti in diretta. Qualcuno ha scritto è un boss. E salutiamo l'ascoltatore che l'ha scritto. Ma invece, grazie, certo. Voglio precisare, tutti nudi, con una tisola. Con una tisola, naturalmente. Ma invece, Marco Roma cosa ha detto in tutto questo? Marco Roma è lì. Poi ci spieghi, però, perché tutti nudi. Perché è colpa sua. È colpa mia, in realtà. Perché è linguaggio stanzonico, è una lunga storia. Allora sentiamo, ti salvo con Marco. Esatto, sentiamo cosa ci dice lui. Buongiorno! Così. Io vedo te, perché tu sei accanto a me, quando mi guardi con quegli occhi e mi dici ti amo tanto, amore mio. Vorrei guardarti ed abbracciarti per sempre, tenerti nel mio cuore. Da Marco Roma, buongiorno! Hai che capito? Bello quando sente la primavera, Marco Roma. Proprio ti amo, è stato il suo primo ti amo in diretta questo, vedi? No? Hai capito. Era rivolto anche alla canzone Tutti Nudi. Naturalmente. Sì, e dunque Ilaria adesso sai che questa non è una trasmissione seria. Per Marco Roma. Adesso mi alzo. No, e fai un jingle anche tu. Infatti risalutiamo Ilaria Tontardini che ci stava raccontando le sfumature di tantissime sfumature in senso di diffuso di un adesso mi viene la parola che non posso dire per cui sto cercando altre parole. Come, no, dilla, esatto. Dilla, per questo puoi dirlo. Un festival? Sì, si poteva dire? Un festival? Sì. Ok. Il festival in arrivo a Bologna, alla sua sesta edizione quest'anno, nel 2024, stiamo parlando di Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Bel rumore. Possiamo chiedere perché il nome? Perché quando cercavamo un nome, quando cerchi il nome di qualcosa che debba rappresentare Bologna, c'è sempre questo boh che ti torna nel mezzo. E dunque si pronuncia bom. Bom, no, perché no. Bom è tremendo. Ah, okay. Però ci piaceva, mentre facevamo le prove, combinavamo delle cose, è uscito questo Boom e ci suonava bene, sapeva di una cosa che prima non c'era, adesso c'è, sapeva un po' di esplosione, che è quello che poi succede quando arriva la primavera e quando arriva la fiera del libro. E quindi suonava, c'erano un sacco di O con cui si poteva giocare graficamente, e poi però dovevamo trovare una cosa che dicesse qual era la filosofia del progetto, e crescere nei libri è stata poi l'idea che è venuta conseguentemente, anzi forse era l'idea che c'era prima, a cui questo Boom poi si è, diciamo, si è incollato. È uscito il comunicato stampa proprio il 28 di febbraio, per cui siamo onoratissimi ad averti qui a Coxo Spaziale in Radio Città Fujiko. Ricordo il 333 180 94 94 per audio per i nostri fantastici ospiti di stasera, e l'aggiornamento del calendario in progress prevede però una partecipazione dal 4 aprile di Boom, Crescere nei libri, no? E prende spunto questa edizione da uno degli eventi principali del programma, che si chiama La Terre Tour, prima mostra italiana dedicata all'illustratrice e autrice belga Anne Brouillard. Hai voglia di raccontarci qualcosa di Anne? O di... Sì, assolutamente, anche perché siamo... Anna, come ce ne sono tante. Mica... No, mica tante. Mica tante. Non come lei. Come lei, proprio molto molto poche. E Anne Brouillard è una specie di gigante... anche se è piccola dell'illustrazione belga. Era tanto tempo che noi come Amelin volevamo fare un progetto con lei, ma avevamo l'impressione che fosse veramente irraggiungibile. Invece oltre a essere una grandissima artista si è rivelata anche una persona super con cui lavorare, e in effetti è un'illustratrice e autrice che ha fatto più di 50 libri nel suo paese, e in Italia è praticamente sconosciuta grazie al fatto che c'è questa mostra e grazie alla collaborazione con degli editori. Sono usciti i suoi due primi titoli italiani per Orecchio Acerbo, e per la fiera ne uscirà un terzo per Baba Libri. Il progetto è un progetto che facciamo alla Fondazione del Monte, dove l'anno scorso abbiamo fatto una monografica dedicata a Beatrice Alemagna, e ha proprio al centro questa idea perfettamente detta in francese da Mia. Eravamo terrorizzati che questo titolo potesse creare dei problemi, invece no, che è il fatto che la terra gira. Lei è un'autrice che ha al centro della sua produzione uno dei temi più complessi e più affascinanti di sempre, che è il tempo. E nel corso del tempo, il tempo nei suoi libri si è trasformato, partendo proprio da dei libri in cui il centro era la metamorfosi, la trasformazione, il passare proprio del tempo, delle stagioni, della luce, delle piccole cose di tutti i giorni, ad arrivare lentamente poi a una dimensione, soprattutto negli ultimi lavori, più narrativa, proprio delle storie, delle grandi avventure, con dei personaggi che tornano, con degli oggetti che tornano. C'è sempre un cane nero che si chiama Killiok, c'è sempre una caffettiera rossa, ci sono sempre specchi, binari, treni, passaggi, attraversamenti. E ci piaceva con questa mostra mettere proprio in evidenza come un artista può per 30 anni lavorare a un progredire di narrazioni, tutte fantasticamente disegnate e scritte da lei, e poi al tempo stesso rimanere estremamente coerente al suo universo. Molto difficile da spiegare senza le figure sotto, e quindi l'invito che mi sento di fare intanto a tutti e a tutte è di andare a vedere il lavoro di Anne Brouillard e poi di venirlo a vedere in Fondazione del Monte. C'è poi una piccola sorpresa collegata alla Fondazione del Monte, ma di cui non vi dico altro, che è un ingresso a casa di Killiok, che è questo il cane nero. Che si terrà poi da Amelin, ma su questo teniamo ancora. Forse offrirà un caffè con la caffettiera rossa. Esatto, questa potrebbe essere una cosa. Killiok è un grande amante dei picnic, sul lago. Noi il lago non ce l'abbiamo, però gli piacciono molto i giardini, invece quello ce l'abbiamo. E in realtà sia in fondazione ci sarà modo poi di ripercorrere veramente dalla nascita di questi personaggi alla loro crescita, cosa sono diventati adesso. E sarà anche un'occasione poi per noi per ascoltarla, perché insieme alla mostra poi ci sarà un incontro in cui lei presenterà il suo lavoro in Accademia di Belle Arti di Bologna, dentro un programma che ogni anno l'Accademia dedica agli illustratori e alle illustratrici, che si chiama Babbo Boom. E poi anche la possibilità di riuscire a capire qualcosa di più del suo lavoro attraverso, oltre ai tre libri usciti e in uscita, attraverso una monografia che stiamo curando, che si chiama Hublot, che è una serie di monografie su degli autori per noi fondamentali nel panorama della letteratura per l'infanzia. E dedicheremo ad Anne una monografia a cui stiamo lavorando adesso, con una lunghissima intervista in cui ci ha dato la possibilità proprio di entrare, di infilarci dentro il suo mondo, a casa sua, in mezzo alle sue cose, in mezzo ai suoi disegni. È stato veramente molto bello, e speriamo che appunto riportarla su carta renda anche ai lettori e alle lettrici la stessa cosa che ha dato a noi, ecco. Che meraviglia. A me piacerebbe fare una domanda a questo punto alla persona di fianco, Riccardo Lolli. Si può dire che cosa pensi di tuo papà, delle sue canzoni? Se ti piacerebbe ascoltare di più Amsterdam oppure Ho fatto un cocktail? No, Ho fatto un cocktail è di Luca Rossi, non c'entra niente. Non c'entra niente. Anche Amsterdam, certo, è di Davide Matriciano, per cui. Non c'entra niente da quello. No, quello è nel disco, quindi, nel tributo a Sant'Andrea, però l'ho scelta perché mi piace il testo, è divertente. Certo. Quindi beh, non avevo detto se erano tuo o no, o l'ho detto. Sì, no, infatti, okay. Infatti l'ho detto. No, mi cercavo di salvare in corno, ma è molto bello vedere tuo figlio qui. Volevo chiedergli se aveva, se potevo fargli due domande, se aveva, insomma, se ti aveva ascoltato cantare fin da piccolo, com'è avere un io un posso papà. Testimoniare che l'ha sentito cantare fin da piccolo. Sì, sì, testimonio anch'io. No, comunque sì, cioè, è difficile dirlo così in poche frasi, però diciamo che è sempre stata una costante un po' della mia vita il fatto di avere un babbo musicista, che mi rendo conto che sia per poche persone comunque una cosa che è abbastanza singolare, no? E comunque penso sia una grande fonte comunque anche di ispirazione creativa avere una persona che fa un mestiere del genere di fianco. E questo sia che sia un musicista, un cantante, ma penso che ci siano tanti altri lavori che possono essere grande fonte di ispirazione, e questa cosa penso sia molto bella, avere comunque un qualcosa a cui ispirarsi, a cui anche un modello da imitare comunque in un certo senso. Mia no? figlia ti ucciderebbe se venisse qui in radio e tu le facessi una domanda del genere. Lumi, la prossima sei tu. Stato, tra l'altro verrà a portare un cantante prima o poi. No, preparati, Lumi, esatto. Allora. No, niente da fare. No, fantastiche queste parole, posso dire che infatti, cioè, Riccardo, mi sono emozionata soltanto a sentirle, cioè che un figlio così premi. Ma l'abbiamo istruito. Sì, c'è poi il rovescio della medaglia, che io sono sempre chiuso nel mio studio a suonare, mixare, girare, lui non mi vede mai, e magari questo può che è può il rovescio creare positivo, sì, della medaglia, sì, per lui, sì, per lui, che non ha, per quello che è ispirato, perché, esatto, non perché non ti vede, infatti. No, sono d'accordo in questo. Riccardo, la tua canzone preferita che hai scritto? Io lo so. Cioè io tutti lunghi è la mia, tutti lunghi, no, è la mia preferita. E me ne frega. No, non è la sì, tua preferita. Sì, è la mia preferita, è diventata la mia preferita dopo che gli è stato dedicato un articolo da Luca Maier, che è un musicologo di chiara fama. Ed l'ha messa fra i 10 pezzi italiani della sua vita. Della sua vita, pensa un po', meglio fregano. È spettacolare. Vogliamo fare un ritornellino o lo mettiamo su www.coxospaziale.blogspot.com domani? Mettiamolo su coxospaziale.blogspot.com domani. Lo sai che ci sono un sacco di menzioni stasera? Te ne eri accorta, no? Assolutamente sì, infatti io volevo soltanto dirti questo. L'angolo della menzione. Perché domani alle ore 18, martedì 5 marzo, al Cinema Lumiere abbiamo La città di cartone, il film di Maurizio Finotto, che è un tuo collega d'Accademia, realizzato dall'Accademia di Belle Arti di Bologna all'interno del progetto Riparazioni, rielaborare ad arte nell'ambito del PON Metro, Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane, coordinato dal Comune di Bologna e finanziato dall'Unione Europea. Introduce la proiezione Cristina Francucci, direttrice dell'Accademia. Questo è ad ingresso gratuito al Cinema Lumière domani alle 18 in piazzetta Pierpaolo Pasolini 2B a Bologna. Invece giovedì 7 marzo alle ore 15 inaugurazione della mostra Incurabile Bellezza, Donne che fanno comunità, a cura di Federica Benedetti, opera di Chiara Negrello, Mariana Toscani, collettivo No Name della sezione femminile della casa circondariale Sant'Anna, sede dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Tutto questo in viale Aldo Moro 50 a Bologna. E adesso arrivo con la menzione, stacco. Ora. Giovedì ci sono un sacco di mostre che inaugurano tutte insieme, non ho capito bene perché, alle ore 17, 30 anni e un secolo, 130 anni dell'Associazione per le Arti Francesco Francia, 1894-2024. Evento organizzato dall'Associazione per le Arti Francesco Francia con un'esposizione collettiva di artisti presso la prestigiosa Sala d'Ercole a Palazzo D'Accursio del Comune di Bologna. Aspetta che mi sta arrivando un messaggio, perché c'è gente che non si ricorda che faccio la radio a lunedì sera. Questo è Palazzo D'Accursio in Piazza Maggiore 6, giovedì alle 17. Stesso orario, presso la sala conferenze del Mambo, abbiamo Doud Doc e dona, grazie al contributo di PwC Italian, il mobile Nino alla collezione permanente del museo, rendendo omaggio a tutta la città dell'opera del fotografo bolognese più amato e stimato nel panorama artistico italiano, se non mondiale, Nino Migliori. Interverranno Nino Migliori, Lorenzo Balbi, Michele De Lucchi, Sandra Varisco, Elena Di Gioia, Ascanio Curcumelis, Marco San Michele, Roberto Sollevanti, Vera Negri, Zamagni. Modererà l'incontro la spettacolare Lavinia Savini. Questo è al Mambo in via Domenzoni 14 a Bologna, giovedì alle 17. E dopo esattamente un'ora, un'oretta, inaugura l'inaugurazione della nuova mostra Soglie, che presenta opere di Anna Cancarini, Valerie Franzelli e Giovanni Rossi, tre ex studenti del Biennio di Arti Visive Contemporanee dell'Accademia Santa Giulia di Brescia, a cura di Eleonora Bianchi, Steffi Garzoni e Giulia Andrea Gerosa, studenti del primo anno del Biennio di comunicazione e didattica dell'arte. La mostra, che resterà aperta fino al 28 aprile, indaga il concetto di liminalità attraverso ombre, luci e trasparenze. Tutto questo a Raccolta Lercaro, via Riva di Reno 57. Invece, venerdì 8 marzo e sabato 9 marzo 2024, l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ospita la prima italiana del progetto Abyssal Creatures di Francesco Cavaliera, cura di Xin, che si articolerà in una installazione sonora visitabile nelle due giornate, con un'attivazione come sound performance alle 18.30 del venerdì, in cui l'artista attiverà una costruzione narrativa immersa nella materia sonora. Tutto questo all'Accademia di Belle Arti di Bologna in via Belle Arti 54. E infine sabato 9 marzo alle ore 17, Christian Holstand, Salve, a cura di Gioele Melandri, all'interno del museo dedicato all'artista della cartapesta Luigi Varoli. La mostra si focalizza sulla spiccata sensibilità di Holstand per diverse tematiche collegate all'utilizzo di questa tecnica nella sua dimensione profonda e che sfociano naturalmente nella pratica dell'artista, come ad esempio il rifiuto, lo scarto e la trasformazione di questi ultimi in una possibile risorsa, mettendo così in risalto molte delle contraddizioni interne che caratterizzano lo sviluppo dell'attuale società dei consumi. Questo a Museo Civico Luigi Varoli, Palazzo Sforza, in Corso Sforza 21, Cortignola, in provincia di Ravenna. A Cotignola. Cotignola. In provincia di c'era già stato qualcosa a Cotignola. A Cotignola c'è sempre un sacco di robe, per quello che gli facciamo un sacco di pubblicità. È un po' lontanina da Bologna, però merita. Da andare. Sono stato anch'io tante volte a Cotignola. Ah, vedi? A fare delle cose. A fare delle cose. Ho suonato al museo di Luigi Varoli. È vero. È vero. Ok, finite le menzioni. Finite le menzioni. Ma è mancato un tadam, ma va bene lo stesso. No. Ma perché magari dicevamo anche. Dicevamo anche una menzione, però forse è troppo lontana, quella di Boom. Quella di Boom. Tanto, tanto lontana. E allora. La faremo quando sarà il caso. No? Beh, ma potete farla dalla settimana prima del 4 aprile fino al 9 giugno, potete farlo tutta la settimana. Infatti. Quindi sarà una menzione continua tutti i lunedì. Tutti i lunedì menzioneremo Boom. Se vi siete spaventati per la lunghezza del comunicato, quando arriva il programma, quando arriva poi il programma non fa paura. Allora faccio il tadan. Vai. Grazie. Perfetto. Adesso sì che possiamo continuare davvero con i nostri fantastici. Ad ascoltare un pezzo. Ospiti. Un pezzo. Lo ascoltiamo? No. Sono i 50. Ah, cavoli. Allora sì. No, non si fa, non lo so. La Fenice? Non lo so. Un'arancia. Un'arancia. Un'arancia. No, un'arancia non era finale. Ah, era il finale? Era vabbè, finale. Siamo la sigla finale. Allora la Fenice. Dai, facciamo un pezzettino di Fenice. Poi magari ci parliamo sopra, così nessuno la può registrare. Esatto. L'orizzonte mattutino si confonde fra i vapori, sguardo grigio di metallo, occhi torbidi al risveglio, luce alta, silenzio mi darà qualche spiraglio, vento basso e mormorante mi sussurra. Rinasce dalle ceneri, cresce ogni volta. La Fenice rinasce dalle ceneri, cresce ogni volta. Poi distruggerla come vuoi, ti rinasce da dentro. La Fenice rinasce in te e tu vivi, vivi. se uno vuole venirti ad ascoltare, Riccardo, dove ti segue? In casa sua. Per il momento, sì, sono su YouTube. Sono su Spotify, no? Sì. Spotify, Bandcamp, soprattutto su Bandcamp, su YouPorn e su Periscope, naturalmente. Ma come? Su Periscope sei una star. Ormai tutti ti conoscono su Periscope. Sì, su Tinder no. Ok. No, questo pezzo che è La Fenice, quello che portò Sant'Andrea a Sanremo, okay. 40 anni fa. Ah, wow. Il problema è che non avrei dovuto cantarlo io. L'artista dovuto cantare lui. No, un altro. Ah, che un però altro. Non è riuscito, non l'ha fatto in tempo, non so che ha avuto. Si è perso. Io l'ho fatto in 2 giorni e ho sbagliato il testo. Ah, fantastico. Perché con la fretta. Ho dato retta a Sant'Andrea, se guardavo il video di lui a Sanremo, che lui si era sbagliato. Dove si era sbagliato. Capito, e quindi c'è questa fantastico. Particolarità che però nel libretto del CD il testo è corretto. Vabbè. Però mi è rimasta qui. Cioè, per cui lui a Sanremo ha sbagliato le parole. Sì. Fantastico. Beh, questo è. Ma scusa, ma nell'84 non era in playback? No. Ah no? No, lui no, dov'è il testo? La Fenice ricresce. L'oceanico silenzio, invece lui ha cantato luce alta silenzio. E non mi tornava questa frase, l'ho ascoltata, no, dice luce alta, lo dico anch'io. Hai fatto bene, ma è anche più bello, più poetico, luce alta silenzio. Se ti lascia quell'alone di mistero che dice luce alta di silenzio. Comunque sono arrivati gli amici di Panta 80, il che significa che dobbiamo finire la trasmissione, non sbaglio. Quindi ci salutiamo. Non lo so, c'era qualcosa che dovevate aggiungere? 5 pagine di comunicato stampa. Altre 4 pagine di comunicato stampa. Almeno sì, 5, dai, 4 e mezzo. Però potete andare sul sito di Boom Crescere nei Libri, dove in realtà trovate un pezzetto di quello che c'è nel comunicato e troverete ancora molto, molto di più. In realtà c'è ancora un po' di tempo per informarsi, quindi abbiamo da qui tempo, al 4 infatti. Aprile potete impararlo a memoria e al contrario. Non lo faremo, ma sicuramente menzioneremo le cose che. Io ringrazio tantissimo Ilaria di essere qua con noi e anche Elisabetta Mongardi, se ci sta ascoltando, che ci ha fatto da ponte. No, ha spento a metà di tutti i lunghi. Ha cambiato. No, aveva il terrore che recitassimo il comunicato. Ah, okay. Perfetto, quindi è esattamente quello che non è successo. Siamo andati bene. Ottimo. Magari ci riascolta la prossima volta. Riccardo, tu vuoi dirci qualcosa in questi 5-10 secondi? Così. Che vi ringrazio per il reinvito, ne avevo bisogno. Ne avevi bisogno. Adesso mi sento molto meglio. Ok. E ringraziamo anche Enrico Farnedi per non essere tornato con tutta la sua band. Scherzo. Io ero Stefano W. Pasquini. Io ero Mia Daschio Suppiei e anche Giulio Lolli oggi ero. E ci salutiamo allora con le parole del nostro direttore, che come al solito ci fa questi complimenti. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Tua voce, baby, la tua voce.